Termos, dischi, concerti e aggiornamenti, la sera su Città del Capo, Radio Metropolitana. In studio fino alle 22.30, Michele Resuccia e Jonathan Clancy. Sentite? Sì, sei in onda. E partiamo così, Michele. Bentrovati ascoltatori di Città del Capo Radio Metropolitana, lunedì 29 novembre, Termos. E questa voce che avete sentito era quella di Marta Fantini, che sta a significare che di là abbiamo la sala ospiti abbastanza piena. Questa sera infatti siamo 5, Michele Resuccio, Jonathan Clancy, e di là chi c'è? Di là gli ospiti del Termos del lunedì che avete sentito negli ultimi mesi, ovvero Marta e Chiara da Moon Talk e Gaspare Caliri da sentireascoltare.com, che ogni tanto ci vengono a trovare. Ciao ciao. Ciao. E questa sera sono tutti quanti insieme a noi in onda. Questa sera sono tutti insieme, tra un po' vengo di là un attimo a sistemare il microfono, perché ho già visto che tecnicamente bisogna metterlo a posto, e poi dopo partiamo con la musica. Esatto, partiremo magari subito con la musica. Questa sera, come al solito, Termos, novità, canzoni, dischi per voi fino alle 10.30, fino al GR in network. La scaletta la trovate aggiornata su termos.rcdc.it, mentre per mandarci degli sms in onda avete un numero di cellulare 348 7619 294. Vabbè. 348 7649 289. Esatto, quello è il contatto dell'SMS, mentre la mail è diretta chiocciola rcdc, com'è? Diretta chiocciola radio città del capo.it. Okay. Ok, 5 voci, 10 mani, staremo con voi con un po' di musica. Per intanto iniziamo con il duo di New York, Wolf and Lamb. Questa è Lowdown. Buon ascolto, ben trovati. Thank you. Ritorniamo in onda, lo facciamo mentre siamo già consci dei nostri mezzi tecnici. Grazie John per aver rimesso a posto anche il mio microfono, che era un po' fuori asse, cosmico. Invece adesso sei di nuovo completamente in asse, quasi in stereofonia, per questo Wolf and Lamb. Esatto, era la seconda delle 7 tracce che compongono il loro disco Love Someone, uscito per la loro etichetta stessa medesima. Era Lowdown, perfetta per iniziare senza ansia la puntata, che prosegue con un paio di ascolti. Sì, un paio di brani. Loro si chiamano Run DMT e sono una formazione di Baltimora, credo, sì, di... Cosa? Ah, ok. Formazione di Baltimora, hanno fatto uscire un paio di 7 pollici, nient'altro. Noi ci ascoltiamo 2 tracce. La prima è che si chiama Spruce Springsteen e la seconda che si chiama Feel Flows. L'ascoltiamo, poi magari ne parliamo dopo. Loro sono Run DMT. E questa è la sigla di Thermos, questa. Questa era dunque Run DMT, myspace.com/RunDMT, molta della musica che fa uscire si trova anche gratuitamente, mette dei proprio link Mediafire a quasi tutto il suo repertorio. Lui è un ragazzo che proviene da Baltimora, dicevamo si chiama in realtà Mike Collins, però ha scelto questo nome ormai da circa un anno, e molte delle canzoni che fanno poi questi giochi all'interno dei titoli, questa si chiamava appunto Spruce Springsteen, mentre l'altra che abbiamo ascoltato era Feel Flows per Run DMT. Vi diamo poi un po' di istruzioni per andare in cerca di queste canzoni sul web da thermos.rcdc.it, dove scriveremo anche il nome del prossimo gruppo che Gaspare ci ha già messo da parte. E sul piatto, così. Sì, siamo pronti. Intanto di là state già guardandovi dischi a vicenda, avete un grande tavolo, quindi lo potete fare con molto agio. Stiamo condividendo, sì, sono i Dios, gruppo duo, credo, californiano, Questo disco è uscito qualche mese fa per la GTD Records, che a me insomma un'etichetta che mi piace parecchio, non so voi se avete qualche ascolto. E ci ascoltiamo il traccio numero 7, che si chiama I Don't Wanna Marry You. Loro sono i Dios e il disco We Are Dios. Con I Don't Wanna Marry You, disco che è uscito quest'estate, ma insomma è molto carino secondo me, quindi me ne voleva la pena. Sì, perché al di là della forma leggera e folk ha delle cure negli echi e nelle linee sotterranee che te lo fanno proprio così, capire all'improvviso. Ma poi il nome Dios. Tra l'altro bravi anche dal vivo, quanto si diceva fuori onda. I prossimi dal vivo come sono secondo voi invece? Non lo saprei, Ghost Poet, che esce per Brownswood, l'etichetta di Giles Peterson. Infatti ho ripreso il pezzo, cioè Lines, da Bubbler 6, che è appunto la compilation, l'ultima compilation della Brownswood. Il disco si chiama Peanut Butter Blues and Melancholy Jam, dovrebbe uscire nel febbraio del 2011 e il pezzo appunto si chiama Lines. Listen, look. do I keep wasting time? I keep on writing, writing, but them folk ain't biting, biting. Maybe the bait ain't juicy enough, so I'm switching, chucking spice and add some flavor up the heat. Silly rhymes and feet that beat. But that ain't me, nah, it just ain't me. So like me, I like me. These are the words of just me truly, sending them out with love and faithfully. Hopefully, there'll be something to me, yeah. Life is too short to store up grudges. Nah. Life is too long to make no plans. I'm counting up time that I ain't using. 1, 2, 3, 4. I need a good use for all these lines. Questo quindi era Ghost Poet con Lines, esce nel febbraio con Peanut Butter Blues e Melancholy Jam. Vi consiglio anche il video che è appena uscito, che si chiama Cash and Carry Me. Il disco su cui si trova è quindi la sesta raccolta. Sì, la sesta raccolta. Di Brownswood Bubblers. Sì. Ghost Poet, e adesso invece è il turno di un pezzo scelto da Marta. Esatto, ci ascoltiamo un pezzo dei Ringo Death Star, che sono questo gruppo un po' come Bruce Springsteen. Esatto. Sì, sì. Sono questo gruppo texano formatosi più o meno nel 2007, e il disco uscirà proprio a febbraio nel 2011 per l'etichetta Club AC30, e ci ascoltiamo un pezzo contenuto in uno dei due EP. Come si chiama il pezzo, John? Starsha si chiama. Okay. Starsha. Ascoltiamocelo. Erano i Ringo Death Star con Starsha. Vi ricordo che il disco uscirà a febbraio nel 2011. Adesso qualcuno dice qualcosa. Stavo ascoltando Thermos del lunedì, lunedì 29 novembre, insomma l'ultimo di novembre. Ah, stiamo registrando per poi metterlo sul blog. Lo stiamo facendo fare ad Amos nell'altra stanza, domani mattina io lo carico sul blog. Sì. Promesso, okay. Qua in onda. Okay. Questo quindi www.moontalkradio.blogspot.com. oltre che chiaramente termos.rcdc.it. Non so se i potenti mezzi di sentire e ascoltare invece ce l'hanno da mettere. Possono mettere un link. Puoi mettere un link, ok. Tanto su sentirascoltare.com trovate miraglie di recensioni speciali, gallerie fotografiche magari anche alle volte. Ogni capita, tanto, sì. Capita. Anche un sacco di contest ultimamente. E un sacco di contest per vincere, soprattutto biglietti. Avete questo vezzo di lasciare in vendita dei gran biglietti. Anche perché i CD non li vuole più nessuno. Io li voglio. Infatti noi noi vi facciamo ascoltare questa sera alle 21.30. Andiamo a riprendere il disco di Scream uscito quest'autunno, all'inizio proprio dell'autunno, di Outside Box, Outside the Box, per la Tempa. Con quel che mi resta di voce facciamo ascoltare, vi annuncio che vi facciamo ascoltare questa, che è Reflections. Venga, Scream. Sta proprio alla fine del secondo lavoro di Scream, Outside the Box. Era un brano con instrumentale di Bryge a dare una mano al produttore inglese, un lavoro bello alla fine, anche se più, più sfacciato nelle varie direzioni che ha preso, si è lanciato molto Scream con questo lavoro. Noi andiamo avanti, lo facciamo con, in questo caso, un singolo che John ha in mano. Sì, si tratta del 7 pollici di una band canadese di Vancouver, si chiamano Shimmering Stars e sono un, credo un quartetto, insomma, che si rifà un po' alla, alla musica di, degli Everly Brothers oppure cose di, insomma, comunque produzioni vicino a Phil Spector e cose di questo tipo. Sono riusciti, hanno questa insomma peculiarità di fare anche loro brani molto molto brevi, infatti sul 7 pollici ce ne sono 4, 2 per lato, nonostante sia comunque a 45 giri, quindi sono proprio molto brevi, e mi concederai di ascoltarne quindi due, la prima si chiama I'm Gonna Try e l'altra Let It Be Me, loro sono Shimmering Stars. Dunque Shimmering Stars, dal loro 7 pollici abbiamo ascoltato due lati diversi, il primo che era I'm Gonna Try e l'altro Let It Be Me. Vi ricordiamo ancora che state ascoltando Termas del lunedì, l'SMS è il 348-7649-289, mentre la mail di là è... Ora me la ricordo, diretta@radiocittadelcapo.it. Yeah. Mentre i siti internet dei rispettivi progetti dei nostri ospiti sono, John... sentireascoltare.com e muntocalaradio.blogspot.com. Esatto, quindi quei contatti oramai no, no, aspetta, mi hanno guardato, mi hanno un po' corretto. Marta ha fatto un po' una faccia così, Un talk un po' precisini radio chiocciola chiocciola@gmail.com. Ah, mi confondevo con un altro, allaradio.blogspot.com. Okay, lasciamo niente. Perdere. Siamo comunque con voi, con un po' di dischi che girano tra la sala ospiti e la sala regia. Il prossimo ce l'ha portato Gaspare Calieri, sì, dalla sua grande borsa dei dischi. Grande borsa, è uscito Frankie Rose, perché suona domani al Bronson, e quindi ce la riascoltiamo, l'avevamo già sentita insieme, e ascoltiamo il terzo pezzo dell'ultimo disco, dell'unico disco che ha fatto, che è Frankie Rose and the Outs, che si chiama Little Brown Head Girls. E poi vi raccontiamo anche del concerto di domani sera. Come si diceva prima, Frankie Rose domani sera al Bronson di Spalla Waves, dicevi, Jonathan? Sì, di Spalla Waves, sì sì sì. Lei è batterista di un sacco di gruppi, Crystal Steels, Vivian Girls, Dandan Girls forse anche, un sacco di... un po' tutti quanti quelli del giro. Esatto. Sì, lei è. Tra l'altro nei Vivian Girls scriveva anche proprio le canzoni all'inizio, quindi insomma... Sì, anche qua. Quindi in anticipo bellissimo. In anticipo. Io volevo ricordare, visto che non l'abbiamo ancora fatto, anche gli altri colleghi di Termos, insomma, visto che è un programma che va in onda tutte le sere dalle 21 alle 22.30, mentre abbiamo anche il sabato di 15.30 a 17.30 con Giovanni Gandolfi e Giovanni Cattabriga. Michele, se vuoi fare l'elenco, che so che ti piace, soprattutto quando arrivi a un certo giorno. Esatto, allora domani sera la Rico Mantovani, mercoledì invece Enzo e la Fagotta per il Termos con le Polaroid dentro, giovedì invece il turno di Morra e Max, e venerdì invece... No, venerdì... Hanno saltato uno perché Morra e Max sono di venerdì, mentre giovedì ci sono Alberto e Amedeo, che salutiamo. Ognuno vi porta un po' di novità, ognuno fa i suoi giochi con la musica, ve la racconta a suo modo. Anche noi qui stasera con la squadra allargata, che adesso vede, sì, un disco scelto da Chiara. Sì. Si chiama Wisp, per Wisp, caso, il pezzo che vuoi mettere. Sì, Jonathan, si chiama Wisp. Siamo molto affettati, lo potete sentire da queste simpatiche battute. È Nicolas Morena, in arte ADLR, un californiano che esce per la Non Projects a gennaio. Il disco si chiama Foam on the Waves of Space Time. e è un pezzo abbastanza più dance, diciamo. Quindi, Possiamo venire di qua, di là noi adesso. Sì, esatto. Okay. A bere birra e danzare. E restiamo tutti in maglietta, come sta facendo Gaspar e Khalil di sentire e ascoltare. Che è molto caldo. Il sito è molto caldo. Ah. Thank you. Quindi questa era Wisp di ADLR. A noi ci veniva la curiosità fuori onda di capire chi fosse il signorino. Si chiama Nicolas Morena. Ma sì. Da dove viene lui, Chiara? Dalla California. Ok. Sì. Poi scriviamo non su... Non so altro. Ok, qualcosina in più ve lo scriveremo su termos.rcdc.it, dove stiamo minuziosamente compilando la scaletta con le canzoni dei singoli e dei dischi trasmessi questa sera. Il prossimo è... Minuziosamente anche faticosamente un po'. Ma minuziosamente presuppone, tra parentesi, tanta, tanta fatica. Il prossimo disco ce lo fa ascoltare invece Marta. Sì. Mettiamo un talk che ci porta una giornalista che si è messa a fare musica, praticamente. Quello che abbiamo scoperto di lei. Si chiama Anika e pare sia berlinese, poi trasferitasi a Bristol dove incontra Mr. Barrow dei Portishead, che le produce il disco che si chiama appunto Anika. E noi ci ascoltiamo la traccia numero 2, che è Young Young, che è una cover di Yoko Ono. Ma nel disco ci sono varie cover, vero? Sì, perché uno è di Skeeter Davis, mi sa. Sì, e poi c'è di Twinkle degli anni 60, di Bob Dylan. Ma dai. Ci sono, sì, credo siano 4 cover e 4 pezzi propri, mi pare. Tanto ascoltiamoci Young Young. Young Young, hold on to a dying foe. Young Young, soft voice goes on and on. I hate you, where did it go wrong? Young Young goes talking to himself on the phone. Young Young sends his men pebbles and stones. Young Young rips his women down to the bone. Sarà Anika, che come da press viene presentata come la prima donna che ha registrato per l'etichetta Invada. Oddio, esatto. Comunque è veramente bello questo brano. Sì. Si chiama Young Young il brano? Sì, sì, sì. Anika. Degli anni 70 di Yoko Ono. Esatto, un bellissimo incrocio, la sua voce, le sue idee, la musica di Geoff Barrow dei Portishead, che come anche il suo progetto Bleak fa uscire queste cose per l'Invada. Il disco esce anche per Stone Throw negli Stati Uniti. Il pezzo tra l'altro ha un bellissimo, ma dai, veramente, Stone's Throw. Ha un bellissimo tra l'altro video che è stato pubblicato nei giorni scorsi, vero, tutto di animazione, e che gioca con la suggestione marziale del pezzo. Quindi altamente consigliato dal Thermos, ci mettiamo sopra il bollino. Se mai... Abbiamo fatto mai un timbro, Jonathan, di Thermos? No, potremmo farlo. Potremmo fare uno stencil. Ok. Fin tanto che abbiamo una certa età possiamo ancora fare lo stencil, quindi cerchiamo di farlo. Andiamo avanti. Thermos del lunedì, 348-7649-289 è il numero di SMS. Intanto stanno tutti a guardare Saviano, Jonathan. No, invece oggi tu hai fatto, beh, non lo dico in onda, però ci hai messo un po' di pressure perché hai sparso la voce che c'era questo puntatone. E qui già la pressione proprio si è alzata. Esatto, adesso andiamo avanti con un ascolto da una doppia raccolta dedicata all'etichetta di New York, Fania Records, che dopo altri omaggi adesso è stata omaggiata e raccontata dai tipi della Strat. Si chiama New York City Salsa, appunto questo doppio omaggio con dentro Eddie Palmieri, Tito Puente, Mojito Santamaria, Willy Colon e altri. In particolare noi ci ascoltiamo la band di casa della Fania, i Fania All Stars, con Mama Guela, dal secondo dei due CD che compongono questo raccoltone dedicato a Fania. Quando si dice suono incendiario, no, siamo in onda. Siamo già in onda. No, volevo dire che nel frattempo ci è arrivato un SMS al 348-7649-289. Siete bellissimi. E ci piace la sintesi e ci piacciono i complimenti legati alla sostanza. XX, non so se è una richiesta oppure sono i bacetti anglosassoni. No, potevamo metterli XX, però magari qualcun altro più avanti, chissà, non c'è fretta. Lasciamo da parte i Fania All Stars, presi in questa raccolta dedicata alla loro etichetta, la Fania Records, si chiama New York City Salsa, esce per Strat. Se non avete una delle tantissime compilation uscite in questi ultimi 5 anni dedicati a Fania, val bene, perché doppi e pezzi non sono presenti nelle altre, né in dischi troppo diffusi, troppo distribuiti di questa etichetta che ha fatto la storia del Latin Jazz ormai 30 anni fa, e noi sempre quel suono andiamo a pescare. Dopo il Vossion che che ci ascoltiamo ora è Il tempo di un musicista, che invece qui tra Termos, Moontalk, che sentire ascoltare è passato spesso. Passa spesso, si tratta di Atlas Sound, il progetto suicida di Bradford Cox dei Deer Hunter. In questi giorni, giorni molto attivi per lui, perché ha messo in download dal blog dei Deer Hunter, che è deerhunterattheband.blogspot.com, addirittura 4 dischi durante, insomma, le ultime festività di Thanksgiving negli Stati Uniti. Ogni giorno metteva dei dischi completi, comunque da 12-15 tracce ad album, chiaramente non magari materiale all'altezza di quello che poi sono le sue uscite ufficiali, però devo dire che per così tanto materiale, stiamo parlando veramente di 50 canzoni, ci sono delle cose ottime, sono tutti brani con molta strumentazione, quindi non sono semplicemente dei demo o delle bozze, e i dischi si possono scaricare dal blog, magari dopo mettiamo il link. Notizia di oggi che curiosamente la Sony ha levato tutti i 4 dischi dal suo blog, e gli è arrivata una notifica dicendo leviamo la musica. Lui stesso ha scritto sul blog, non capisco perché, ovviamente io non c'entro niente con la Sony, sono su Cranky e su Foredi rispettivamente per i miei progetti, ma è così, però la Sony gli ha levato da Mediafire insomma i dischi, lui però stasera li ha rimessi tutti quanti su e l'ha riscritto sul suo blog, quindi non si capisce. Tra l'altro hanno levato 3 dei 4 volumi, e l'unico volume che è rimasto su da scaricare era uno dove c'era una cover di Dylan, quindi magari a quel punto, però quello non è quello che hanno tirato giù. Insomma, piccola querel di quello che è successo proprio tra l'altro oggi. Su come funziona adesso la musica, su come qualcuno cerca di inseguire. Cioè, non puoi mettere i tuoi dischi. Insegui qualcun altro per una questione di merito, chissà. Comunque, cosa ci ascoltiamo? Noi ci ascoltiamo, direi, da il volume 1, il primo che era uscito, quindi l'unico che si trovava online quest'oggi, ma stasera già si trovano tutti. La traccia numero 4 si chiama Lanterns. Tra l'altro, c'è anche un'altra cover che è quella di Kurt Vile, l'altro artista valido che incide per Matador. Però noi ascoltiamo questa Lanterns, che è forse una delle tracce più piene come suono di Atlas Sound. questo era dunque l'Antelands Atlas Sound. Sono quattro i volumi, si chiamano Bedroom Databank volume 1, 2, 3, 4. Questo disco in particolare, lui dice, è fatto con Bradford Cox all'armonica, synth, batteria, voci, computer, e c'è un'altra persona che però insomma non è identificata, ci sono solo le iniziali, che suona le maracas e altre voci. Ogni disco diciamo è fatto con comunque una strumentazione diversa, ci sono anche le quattro copertine e potete anche leggervi il messaggio della Sony su dearhunterdtheband.blogspot.com. Noi vi rimandiamo lì a partire da thermos.rcdc.it. Intanto c'è Gasper di là con un vinile in mano e molto non so pesante. Come farà a metterlo su, però bellissimo. Ah, è bellissimo, sì, è preso da Future Base, la nuova compilation Soul Jazz Records, molto molto bella, con tantissimi pezzi veramente belli, molto validi. No, stavo guardando che non trovo, ah sì, ok, l'ho trovato, si chiama Black Show, è il nuovo progetto di Kevin Martin. E ricorda un pochino le ultime cose, tra cui Making My Da Sound. Noi ci ascoltiamo R, che è l'unico pezzo suo su questo triplo vinile, è R di Black Show. Bello questo pezzo. Sì, molto bello. Era Air di Black Show, il nuovo progetto di Kevin Martin, preso da Future Base compilation soul jazz che fa un po' il punto sulla scena del dopo dubstep, prendendo un po' di personaggi noti, altri meno, almeno a me, anche se so che Michele li conosce tutti. Hai visto solo che c'è Ramadan Man, Subversion e vabbè, Mala Forte, Tantold, Cocky, sì, eccetera. No, una bello scavare tra i bassi, visto che è sempre più dub, evviva. Cercatevela, perché soprattutto è una versione che tu, Gaspare, in triplo vinile costa, pesa tanto, ma rende vale benissimo la pena l'ascolto. Averlo. Decisamente, sì. Urca, amici. Abbiamo poco meno di 20 minuti per lasciarvi col gerlo, facciamo con un po' di musica. Vediamo se riusciamo a fare un altro giro intero. Arriviamo di nuovo a Chiara, yes. Che hai scelto un'uscita, mi pare, della settimana scorsa. Sì, della settimana scorsa, un grande ritorno di Kanye West, il quinto album che si chiama My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Io ho scelto un pezzo che ha fatto con Rihanna, John Legend, Alicia, Fergie, insomma un pezzo abbastanza da radio DJ, però che secondo me è valido come ritorno, e quindi andiamo ad ascoltare All of the Lights. Ok, Kanye West. Baby, extra bright, I want y'all to see this. Turn up the lights in here, baby. You know what I need, want you to see everything. Want you to see all of the lights. Fast cars, shooting stars. All of the lights, all of the lights. Nigga dead. I slapped my girl, she called her feds. I did that time and spent that bread. I'm headed home, I'm almost there. I'm on my way, headed up the stairs. To my surprise, a nigga replacing me. I had to take him to that ghetto university. All of the lights, top lights, flashlights, spotlights, strobe lights, street lights. All of the lights, all of the lights. Life, drug life, thug life, rock life, every night. All of the lights, turn up the lights in here, baby. Extra bright, I want y'all to see this. Turn up the lights in here, baby. You know what I need, want you to see everything. Want you to see all of the lights. Restraining order, can't see my daughter. Her mother, brother, grandmother hate me in that order. Public visitation, we met at Borders. Told her she'd take me back, I'll be more supportive. I made mistakes, I bumped my head. In court sucked me dry, I spent that bread. She need a daddy, baby please. Can't let her grow up in that ghetto university. All of the lights, top lights, flashlights, spotlights, strobe lights, street lights. All of the lights, all of the lights. Fast life, drug life, thug life, rock life. going all the way this time. Turn up the lights, young baby. Extra bright, I want y'all to see this. Turn up the lights, young baby. You know I don't need, want you to see everything. Want you to see all of the lights. Dopo questo bellissimo pezzo di Kanye West, passiamo a Marta. Infatti, in sintonia con Kanye West, vi faccio... Cos'è da dirci su Kanye, Marta? Beh, dai, è un personaggio un po' controverso. La domanda era rivolta a Marta, in realtà. Ma dai, ma c'è anche un tuo eroe su questo disco, no? Chi c'ha? Il Bon Iver. Veramente? Canta in una canzone. Rivalutiamo, ma in verità non mi piace. Comunque no, volevo dire un attimo una cosa seria. Il disco di Kanye West è stato anche disco della settimana di Class con More MC settimana scorsa, quindi c'è il bollino a testimoniare che è un disco che è entrato di anche class. Parte che è di Class. Io non ci credo che Morra ha selezionato questo disco. Sì. Morra tra l'altro ci sta ascoltando in questo momento. Vabbè, sì, rimediamo in qualche modo in ogni caso. In perfetta sintonia appunto con Kanye West, ci ascoltiamo i Lower Dance, che sono un progetto di John Hunter. È uscito recentemente il disco che si chiama Twin End Movement e noi ci ascoltiamo la traccia numero 1 che è Blue and Silver. Buon ascolto, oramai siamo in chiusura. Termos consentire di ascoltare un talk, Lower Dance. Thank you. questi erano i Lower Dance, progetto di John Hunter. Band che hai visto dal vivo, no? Recentemente. Sì, li ho visti proprio sabato a Bruxelles, in un locale molto, molto bello, si chiama Ancien Belgique. E mi sono piaciuti abbastanza, ma non mi hanno del tutto convinto. Anche tu li avevi visti, vero? No, no, mai. No? No, no, no. Ma come mai non ti hanno convinta? Ma perché... non lo so, a parte che secondo me mancano un po' anche i pezzi. Cioè le canzoni, sì, proprio. Sì, sì, hanno, nel disco hanno secondo me 3-4 pezzi buoni, però ne mancano, e quindi dal vivo secondo me un pochino si sente questa cosa. Ho capito. Neanch'io l'ho visti mai dal vivo, Marta. Va bene. Bene, queste erano... Queste frecciatine tra le Moontalk DJs. Esatto, queste erano le voci di Marta e Chiara. Con loro di là nell'acquario, qui ospite Termos, c'era anche Gaspare Caliri. Ragazzi, noi vi ringraziamo, ci rivediamo a dicembre. Okay, quindi sì. Preparate 3 giorni. Esatto. Preparatevi le agende e la scaletta già la ritrovate su termos.rcdc.it, esatto. Sì, domani caricheremo invece l'audio su tutti i siti qua partecipi. Esatto, visto che ce l'avete già richiesto, grazie per essere stati con noi e ci lasciamo con un remix di una jam molto confusa di Fela Kuti che è diventata No Possible per le mani di un produttore norvegese, Joystick J. L'ha messa a scaricare sul suo SoundCloud e ne ha tirato fuori questo Joystick J's Vulgar Distractions Edit di No Possible, che è un pezzo che poi non esiste, di Fela Kuti. La trovate linkata alla fine della scaletta. Ciao a tutti e buona serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Away again, be no possible. Man, not to do the things you. times. You need my help, yes. I give you everything you need. I need your help, yes. You did turn, you did twist, you look left or right, you don't give me anything. Now you want to be my friend, be no bossy. Your car, me and you we share together sometimes. You need my help, yes. I give you everything you need. I need your help, yes. You did turn, you did twist, you look left and right, you know, give me anything. Now you want to be my friend, be no bossy.